a testa bassa. Manzo, toro, vitello, con corna, cervide, becco, muflone, montone. Altre specie animali, quelle che puntano la testa ad incornare. Chi? Il tutto, il vuoto. E poi noi altri, di testa bassa, collo chino, blandi, spesso, somari da montare di carichi, da caricare d'oneri, di basti, sino a che qualcheduno di noi, dicendo basta, la testa levi e quei boia lesti gli mozzino la testa, e tanto basti.